esempio sono le residenze attuali che hanno sostituito gli OPG, che diciamo che sembra che non sia cambiato nulla, cioè è cambiato soltanto il fatto che siano, che anziché stare in un posto che sembra tra virgolette un carcere, ma non lo è, anche se l'OPG di Barcellona si sta trasformando in un carcere. E questi sono degli appartamenti molto puliti, però per esempio non hanno le maniglie alle finestre. Queste persone durante la giornata fanno delle attività che non so, forse non tengono conto della, o non badano un po' a quelle che sono le loro vite, le loro personalità. E noi abbiamo dato invece una speranza a queste persone. C'è qualcuno, infatti poi alla fine del film una di queste persone, cito questo esempio, insomma, per dire, di queste persone che sono state poi da noi liberate, e adesso sento questo ragazzo lavora in un agriturismo qui sulle colline vicino a Messina. Noi abbiamo ripreso anche queste persone nella parte finale del film, nei loro luoghi, nei luoghi di lavoro. Sono persone che sono state accolte, amate, che poi è il senso dell'esperienza basettana, anziché tenute in una situazione di controllo, tra virgolette, farmacologico o altro simile. Per cui credo che questo poteva essere una strada alternativa, però attualmente non è passata questa idea. Che distribuzione sarà? In quante sale? Allora, questo è il lato dolente, nel senso che attualmente lo stiamo facendo uscire nei posti dove abbiamo i contatti nelle città, dove conosciamo sia a livello cinematografico, ci sto in sale, eccetera, ma sia a livello, perché il nostro essendo un film trasversale, cioè conosciamo delle reti sociali, perché noi siamo una fondazione che si occupa più che altro di progetti sociali. E quindi dove abbiamo contatti organizzeremo delle serate con questa proiezione di film. Per cui attualmente è così. Ora stiamo cercando di vedere se c'è una seconda fase, una distribuzione più ampia o più tradizionale. Ecco, attualmente è una distribuzione artigianale, cioè noi. E per saperne di più ci dai dei riferimenti internet? Sì, c'è un sito internet www.primularossailfilm.it e lì trovate tanti articoli, recensioni che stanno uscendo proprio in questi ultimi momenti, e tutti i riferimenti con le foto, vicende insomma che sono legate al film. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film Primula Rossa di Franco Iannuzzi al cinema da giovedì 30 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Con Simone Totola di Officine Ubu, che distribuisce il film Quel giorno d'estate di Michael Herz al cinema da giovedì 30 maggio 2019. Simone, ben trovato. Ciao a tutti. Ci racconti la storia? Sì, certo. Allora, Quel giorno d'estate racconta di David, che è un giovane ragazzo che vive a Parigi, dove sbarca il lunario con piccoli lavoretti occasionali, e l'unico contatto familiare è rappresentato dallo stretto legame che David ha con la sorella Sandrine e la nipotina di 7 anni. Le loro vite scorrono tranquille fino a quando un giorno un attentato terroristico colpisce la città, e nel quale Sandrine, la sorella di David, muore. E da qui, oltre a dover affrontare lo shock e il dolore della perdita, David deve ora prendersi cura non solo di se stesso, ma anche della giovane nipote Amanda, e trovare insieme a lei una nuova serenità per ricominciare a vivere. Quindi è un film sull'elaborazione di una perdita, sull'amore, sulla famiglia, e affronta tutti questi temi in un'ottica di post-attentato terroristico, quindi non è un film solo sulla Parigi o sulla Francia di oggi. Infatti il regista non dipinge la città con i soliti scorci ai quali siamo abituati, ma mette in scena una città che è tutte le città, perché il dolore e la paura che nascono dopo un attentato terroristico sono le stesse in ogni città del mondo. Tra l'altro Amanda è il titolo originale del film. Amanda è il titolo originale, che è appunto il nome della piccola protagonista, che è un'attrice giovanissima di soli 7 anni, è un'attrice esordiente, e è stata scelta scelta dopo numerosi casting fatti fuori dalle scuole o dalle palestre, e ha colpito immediatamente il regista per questa sua grande espressività e per il fatto di sembrare sì una bambina, ma una bambina quasi già adulta, ecco. Di questo regista cos'altro sappiamo? Allora, Quel giorno d'estate è il terzo film di Michael Hirst ed è il primo ad essere stato distribuito in Italia, e quindi noi siamo molto contenti di poter far conoscere al pubblico italiano questo regista che ha un tatto e una sensibilità unica nell'affrontare alcuni temi. Anche nel film precedente c'era comunque il tema del lutto, della perdita di una persona cara, e il suo stile così delicato e questo modo che ha di raccontare, di affrontare certi temi senza dover per forza cadere nel melodramma o nella lacrima facile, ecco, lo distingue come uno dei registi più promettenti del cinema francese. Ecco, oltre a questi elementi, quali sono nel complesso quelli che secondo te rendono convincente questo film? Ma come ti dicevo, è il primo film che affronta il tema del terrorismo che ha colpito l'Europa e non solo negli ultimi anni, e quindi diciamo ha un approccio molto umano sugli effetti che questi avvenimenti purtroppo hanno sulle persone. Lo fa con un estremo rispetto e un'estrema sincerità, e al tempo stesso con un'estrema delicatezza, anche grazie ad un'interpretazione da parte dei giovani ma bravissimi attori che fanno un lavoro veramente incredibile. Quindi è un film assolutamente emozionante, coinvolgente e che rimane, ecco. In Francia che tipo di risposta ha avuto? In Francia è stato accolto molto bene, la stampa lo ha veramente osannato, anche perché appunto la Francia essendo diciamo un paese che ha subito forse in Europa più di tutti questi attentati, era difficile trattare questo tema cercando di rispettare poi l'effetto che questi avvenimenti hanno avuto, ed è stato accolto molto molto bene, ma proprio grazie a questo approccio diverso ed estremamente delicato che il regista ha voluto dare con il suo film. Voi dove lo avete incontrato? Il film è stato presentato in Italia per la prima volta al Festival di Venezia, nella sezione Orizzonti, quindi è passato diciamo a settembre dell'anno scorso al Festival di Venezia, e uscirà quindi il 30 maggio poi al cinema con noi. In quante sale sarà? Guarda, uscirà in circa 50 sale in tutta Italia, nelle principali città italiane, e poi man mano come sempre cercheremo di allargarci sempre di più anche nelle province. E allora ricordiamo il film Quel giorno d'estate di Michael Hirst al cinema da giovedì 30 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola di Officine Ubu che distribuisce il titolo. Simone, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un abbraccio a voi, grazie mille, ciao. Con Andrea Inzerillo, direttore della nona edizione del Sicilia Queer Film Fest a Palermo dal 30 maggio al 5 giugno 2019. Andrea, ben trovato. Grazie, ben trovato a te. Lo raccontiamo? Intanto partiamo dalle origini di questo festival. Nuova edizione, abbiamo cominciato nel 2010 in un panorama cinematografico sicuramente diverso, in cui il cinema LGBT era penalizzato a livello distributivo. Questa cosa è via via si è andata modificando nel corso degli anni, ma rimane un'esigenza di indipendenza e di libertà che ancora è senz'altro penalizzata nella distribuzione ordinaria. Il nostro festival prova a dare spazio appunto a quel cinema contemporaneo d'autore che indaga con uno sguardo più che con una tematica strettamente intesa, e appunto facciamo questo cammino nel cinema contemporaneo portando quelli che a noi sembrano alcuni tra gli sguardi più interessanti. Siamo confortati dal fatto che alcuni di questi autori o per esempio alcuni di questi montatori, abbiamo in giuria quest'anno una montatrice che ha montato molti dei film che noi proiettiamo e che ha appena vinto il Grand Prix du Jury al Festival di Cannes col film di Mathilde Diop.

Grazie e a presto. Con Aldo Spiniello, co-direttore della rivista Sentieri Selvaggi 21st, che presenta il secondo numero a Roma al Bookstore del Palazzo delle Esposizioni venerdì 31 maggio 2019. Aldo, ben trovato. Buongiorno a tutti e ciao Federico, ciao. Per chi non la conoscesse, presentiamola intanto. È il nuovo progetto editoriale di Sentieri Selvaggi che prende l'eredità, in realtà, del magazine bimestrale che già facevamo, però era semplicemente in PDF, quindi era digitale. Adesso siamo tornati su carta. Sentieri Selvaggi ovviamente è una rivista che nasce su carta, prima come fanzine nell'88 e poi torna nel 98, un anno di cartaceo, eravamo in fide all'epoca. Poi insomma, sai, le varie vicissitudini dell'editoria, siamo stati tre prime ad andare web, adesso abbiamo pensato di ritornare su carta con questo nuovo progetto, sempre bimestrale, approfondimenti, però non riguarda solo il cinema, ma insomma il mondo dell'immagine e dell'immaginario a 360 gradi. Come è strutturata la rivista? Presentaci questo secondo numero. Beh, il secondo numero c'ha, ad esempio c'ha un tema particolare, dalla copertina insomma si può vedere, e parliamo del centenario del Bauhaus, quindi questa grande scuola, questo grande, chiamiamolo, movimento, anche se non è proprio un movimento, vabbè, una scuola, architettura, quindi arti applicate, design, pittura e quant'altro. Però ci interessava ovviamente anche riferimento a quello che è l'immaginario di oggi, quindi quanto ancora è vivo il Bauhaus, se è possibile individuare un cinema Bauhaus, in che modo il Bauhaus esce nel mondo delle immagini e via dicendo. Ovviamente accanto a tutto questo poi ci sono tutta una serie di argomenti. In questo numero ad esempio ritorniamo su un tema che già abbiamo affrontato, sul cinema black, cinema, chiamiamolo afroamericano, quindi alla luce delle ultime uscite, Us di Jordan Peele, Black Panther, quindi cerchiamo di capire a che punto, in che modo si porta avanti anche certe istanze, certe battaglie attraverso il cinema. Parliamo della periferia movie, ad esempio, c'è un lungo articolo di Sergio Rotto che parla appunto dello sguardo sulle periferie del cinema italiano in tutti questi anni. C'è poi un piccolo approfondimento a partire da un documentario a cui io tengo molto, un documentario molto bello di Dominique Marché, regista francese che si occupa ormai da alcuni anni del tema della riappropriazione del paesaggio, quindi lavora appunto su questa cosa, su come dalle piccole comunità locali nascono nuove forme, nuove possibilità di democrazia e di autogoverno alternativo. Il documentario si chiama Nessun uomo in isola, che è uscito in Italia a marzo, c'è poche sale ovviamente, però io ritengo che sia un lavoro molto importante. Insomma, quindi varie altre tematiche, ripeto, ovviamente noi partiamo dal cinema, ma cerchiamo quanto più possibile di allargare lo sguardo su quello che ci circonda. Ad esempio nel magazine c'è tutta una sezione dedicata alle nuove tecnologie, alla rete, o parliamo di approfondimenti che possono essere quelli dei videogiochi, la gamification, oppure appunto le nuove tendenze del web e via dicendo. L'area che vi dicevo a proposito dei paesaggi, della riproduzione del paesaggio, è l'area degli spazi, quindi spazi urbani, spazi extraurbani, comunque ragionare su come l'immaginario, su come l'immateriale riesce a influire sullo spazio concreto, quello in cui viviamo, come lo attraversiamo, come lo immaginiamo come lo viviamo. Rispetto alla scelta di grafica e immagini, cosa ci dici? Il grafico che fa un gran lavoro, devo dire la verità, e a cui diciamo va dato il merito del progetto grafico, Brunella De Cola, architetto, scenografo, insomma, lei che ci dà una mano, quindi abbiamo cercato di essere il più possibile, no, non dico pop, perché il termine linea che avevo, mi lascio sempre un po' perplesso, però quantomeno accattivanti, ecco. Beh, insomma, molta cura alle immagini e ai colori, al modo di distinguere una sezione rispetto all'altra, quindi molta cura su questo aspetto sicuramente. Ci dicono che è una rivista molto bella da sfogliare proprio qui. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro da questo punto di vista. Quante firme per quante pagine? Viaggiamo sempre intorno a 100-110 pagine, ripeto, il numero bimestrale. Ci sono ovviamente le firme della redazione di Del Vaggio, ma ci allarghiamo quanto più possibile a firme, a contributi esterni. Credo, insomma, viaggiamo sui 20-25 firme per ogni numero. Insomma. Come sarà la presentazione al Palazzo delle Esposizioni? Che sarà venerdì alle 18.30, quindi questo venerdì 31. Ovviamente saremo noi, io e Carlo Valeri, che presenteremo il magazine, accompagnati da tutta una serie di clip che riguardano le questioni e gli argomenti che trattiamo su questo numero. E ovviamente avremo anche la possibilità di spogliare su schermo il, quindi diciamo, il formato digitale che rimanda a quello che sta, perché la rivista si può acquistare anche semplicemente in formato digitale. Avremo la possibilità di spogliare il magazine, insomma, racconteremo questo numero, il nostro lavoro in questo modo. Ci dai tutti i riferimenti web? Allora, sì, per qualsiasi informazione riguardo abbonamenti, acquisti delle singole copie, si può andare su sentieriselvaggi.it, quindi sul nostro sito, nell'area dedicata a Sentieri Selvaggi 21st, e da lì ovviamente insomma, si avranno tutte le informazioni in merito. Allora, ricordiamo la presentazione del secondo numero della rivista Sentieri Selvaggi 21st a Roma, al Bookstore di Palazzo delle Esposizioni, venerdì 31 maggio 2019 dalle 18.30. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore Aldo Spiniello. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie a voi, grazie, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Con Sofia Peri, protagonista del documentario I Sono Sofia, scritto e diretto da Silvia Luzzi, in programmazione su Rai 3 sabato 1 giugno 2019. E Sofia, ben trovata. Buongiorno, ben trovata anche a te. Che storia racconta? Intanto è un film che racconta la mia storia. Racconto la mia storia partendo dalla mia storia, per cui racconto la storia mia, della mia famiglia e di tutte le persone che mi sono state attorno, ma non solo, perché in verità racconta anche la storia di tante persone che si trovano in una situazione molto simile alla mia, persone che vogliono transizionare, persone che si sentono e sanno di essere un genere e che lo Stato dice no, non è vero, tu non sei quel genere e devono lottare per vedere, riconoscere la propria identità. È un film che essenzialmente non parte dall'inizio, dalla parte che un pochettino tutti conosciamo, che è stata molto stereotipata, ma va ad affrontare quello che è un tema molto importante per molti di noi, che è il viaggio, perché per molte di noi persone transgender purtroppo non sempre troviamo un ambiente che ci permette di affrontare la transizione al meglio, ma dobbiamo viaggiare per cercare chi è il più esperto per poterci aiutare. Com'è nata l'idea di realizzarne un film? La cosa curiosa è che io inizialmente non avevo nessuna intenzione né di fare un film, né di fare un documentario, né di espormi. Tutto è nato quando principalmente abbiamo iniziato a parlare con una mia collega e lei così con curiosità inizia a farmi domande sempre di più, fino a quando non è venuta a me dopo un po' di tempo e mi ha detto: senti, io vorrei portare la tua storia a quante più persone possibili, perché credo che qui si possa aiutare delle persone. La cosa curiosa è che inizialmente dissi, ci devo pensare perché non ho tanta voglia di espormi, però poi mi sono resa conto che se non mi esponevo io, chi lo faceva? È una di quelle situazioni in cui